Allora, il tavolo di oggi è durato quasi 6 ore di trattative e alla fine siamo riuscite, alla fine però dopo un po' di trattativa tra le due cooperative, l'Ital Pizza e noi lavoratrici, lavoratori che eravamo state lasciate a casa, e alla fine c'è il risultato che siamo usciti, siamo qua molto contenti a festeggiarlo, che entro il 20 noi torniamo a lavorare, sia la gente che è stata sospesa, sia la gente che è stata trasferita, sia la gente che è stata licenziata. A lavorare entro il 20, fino al 20 di gennaio non siamo pagate, poi dopo loro fanno un altro tavolo trattativo con il nostro sindacato per vedere i punti del contratto, qual è il contratto che devono applicare, tutto quanto il resto. Noi siamo stati qua davanti all'Ital Pizza 2 settimane a scioperare, non è per niente, per avere il nostro diritto, non è che abbiamo rubato, fare qualcosa di divieto, noi abbiamo chiesto i nostri diritti, dobbiamo lottare sempre per questo. E adesso questo è il risultato, un buon risultato che abbiamo avuto. E allora partiamo appunto dal risultato, anche per raccontare un po' come era nato lo sciopero. Infatti se vuoi raccontarmelo un po', mi pare che ci fosse stato appunto, fosse nato proprio dalla sospensione di alcune lavoratrici poiché avevano deciso di iscriversi a un sindacato che è Sicobas. Allora, noi da quando loro hanno saputo che eravamo iscritti sotto il sindacato Sicobas, hanno lasciato 5 persone, noi 5 donne con un ragazzo a casa. Poi dopo un'altra settimana ci hanno mandato una lettera di trasferimento che trasferiscono noi e altri cantieri divisi a Soliera, Bologna, Bazzano, tutti. Poi noi siamo arrivati qua davanti all'Ital Pizza a scioperare, è stato molto duro, abbiamo preso del gas, abbiamo preso delle bastonate, siamo stati qua tutti uniti, alla fine abbiamo avuto tutto quello che dobbiamo avere. Anche perché tra l'altro l'altra diciamo istanza portata nello sciopero era appunto la questione che molti delle lavoratrici e dei lavoratori sono diciamo sotto inquadrati, nel senso che hanno un contratto che è quello per le pulizie, diciamo, mentre poi effettivamente producono proprio le pizze. Sì, noi avevamo un contratto, molti servizi, pulizie, quelle lì non va bene per noi perché noi facciamo le pizze, quindi dobbiamo avere un contratto alimentariste, quello lì che va bene, e noi abbiamo chiesto quello. Adesso loro, dopo il sciopero che abbiamo fatto, dopo tutto che abbiamo fatto, adesso hanno deciso di, nel frattempo che noi siamo a casa, loro fanno un altro appuntamento per un'altra trattativa, così cercano di fare, applicare il contratto, dipende ognuno la sua mansione che le fa. E voi lo sciopero e il presidi li avevate iniziati appunto per la questione del... Sì, perché il sciopero era il 28 di novembre, era il primo sciopero che avevamo fatto, era saltato fuori con un tavolo il 5 di dicembre in prefettura, e invece è andato male, non hanno fatto parlare lavoratrici, non hanno fatto ascoltare cosa vogliono. E allora, siccome è andato male, la gente è tornata subito qua davanti al cancello e si è ripresa il sciopero. Il giorno di ieri hanno deciso di fare un altro tavolo trattativo in prefettura di oggi. Questi lunghi giorni appunto di sciopero e di presidi, c'è stato da una parte il numero di lavoratrici e lavoratori che sono aumentati, quelli che sostenevano i presidi e anche i sostegni. Giorno per giorno stanno per aumentare, anche adesso stanno per aumentare, c'è della gente che continua a scrivere con questo sindacato. E dall'altra parte ci sono state appunto anche molte cariche, lanci di gas lacrimogeni. Sì, dalla parte delle polizie c'erano le lacrimogeni, poi ieri davano anche delle bastoni, c'è un nostro collega, non lo so se c'era il video che era in giro, l'avevano visto tutti, è andato in pronto soccorso, l'hanno dato una settimana, che ha preso delle bastonate e così. E invece volevo chiederti adesso un po' di qual era in generale la situazione diciamo lavorativa all'interno di Ital Pizza, nel senso che l'ultimo atto, quello di lasciare a casa delle lavoratrici perché si erano iscritte a un sindacato, chiaramente fa pensare a dei ricatti da parte dei proprietari dell'azienda, diciamo dei datori di lavoro, però poi in queste settimane sono emerse anche altre situazioni di ricatti, per esempio sul lavorare nel weekend. Sì, perché noi quando eravamo lì dentro lavoravamo sia il sabato, è capitato di lavorare le domeniche, giorni festivi, c'è della gente che fa il doppio turno, facevamo di tutti e la busta era sempre quasi la stessa, cioè i soldi sono sempre meno. Per quello la gente ha deciso di scrivere sotto questo sindacato per controllare a modo le loro buste, ha avuto la loro scelta libera di scegliere il loro sindacato, controllare la loro busta, e hanno scoperto che non andava bene, e per quello la cooperativa ha deciso di lasciare la gente a casa, tipo sospensione.